24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Scusa se perdo lacrime di strada. Schifo, 1500 per me. Un altro mi riporta il comune 1500, un altro 750. Una sessione di 19. Ogni mese. Ma rientra tutto, rientra proprio tutto. Anche quest'anno non aiuto. Io sono sconvolto perché. Sono sconvolto perché vedere una persona seria come il procuratore di Roma parlare di mafia, essenzialmente ha parlato di mafia, ha utilizzato questa parola. Almeno finché tardi, dormi e vedrai che manco mi sentirà. Qualcosa come 2 milioni di euro per la campagna elettorale. Che chi tanto? Chi gliela dà? E sono 1,5 milioni di euro vengono da questi contributi. 500.000 sono debiti che io ancora ho addosso. Io sono uscito fuori dall'esperienza da sindaco di Roma più povero di quando ho cominciato. Ho dovuto vendere una casa e fare un mutuo per pagare una campagna elettorale che è stata molto onerosa, in cui il partito non mi ha aiutato, il Popolo della Libertà non mi ha aiutato. La strada, chissà che addormi qui domani o non mi inventi un'altra vita. Ovviamente l'epicentro di tutto è l'amministrazione di Alemanno, ma non mi pare di poter dire che alcuni del PD romano possano tirarsene fuori allegramente. Per questo oggi ho accolto la disponibilità del segretario del PD romano Cosentino, che è una persona seria, ho accolto la sua disponibilità a fare un passo indietro e ho proposto il commissariamento del PD di Roma nella persona di Matteo Orfini, che è il presidente del partito. All'angoletto desta strada, chissà che addormi qui domani o non mi inventi un'altra vita. Ah ragazzi, che spaccato. Roma nuda. Roma nuda. Che spaccato leggere le intercettazioni del bruttone, er porcone, er maialotto, er Watson, er Rommel, er cecato. E poi chi c'è? Er forfora, er forfora. Roma nuda. Mamma mia ragazzi, è un disastro, un disastro. No, il bruttone non era poi finito tutto, la bella combriccola andava a mangiare da er bruttone. A volte i nomi, i soprannomi, le espressioni raccontano più di migliaia di pagine di intercettazioni, dai, su. Allora ci svegliamo da due giorni a scoprire che il più pulito c'ha la rogna, in pratica, che lucravano su tutto, hanno trovato a casa di un dirigente del comune Murati 570.000 euro, lui ha detto i risparmi di una vita, ma vattene a... Tutto, su tutto lucravano, sui rom, sugli immigrati, sulla neve a Roma lucravano, sulla neve a Roma. È uno spaccato. E poi tutti, c'era il libro nero, e si vantavano, guarda quanto è nero. Proprio lo aprivano ed era a casa della segretaria di Buzzi e c'erano l'elenco, 15.000 euro a questo al mese, 10.000 a questo, 5.000 a questo, stipendi, soldi, case, a uno vuole la casa da 130.000, sì, ma più di 130.000 non gliela compriamo, non gliela compriamo più di 130.000 euro, e dai, gli ho dato a un altro 10.000 euro per carinerie e mo basta, non gli diamo più una lira. Che addormi qui domani o non mi inventi un'altra. nostra vita. E poi c'è Alemanno che dice: ho dovuto fare un mutuo, insomma mi sono impoverito a fare politica. Questo è un gran classico, non si capisce mai perché fanno politica questi politici che si impoveriscono, perdono soldi, lo fanno per noi ovviamente, per il dovere di... sì, per noi, va bene. Sono le 6:32 minuti, Roma è nuda. E non solo Roma, forse. Renzi è andato in TV a dire basta, commissario tutto, mando lì Orfini e ai suoi pare dica bisogna spazzare via tutto. Ha detto anche quando ho letto questa cosa, dico al PD, oh, mancavano Jack lo squartatore e il mostro di Loch Ness in questa inchiesta. Va bene, saluto Lorenzo Nespoli in redazione e Gianmarco Ferronato in regia. Il nostro alpino l'abbiamo sempre perduto, ma in qualche modo tornerà. E dai, apriamo il Parlamento. Il Parlamento. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Parlamento. Forza, forza, gente, accorrete al... Forza, forza, tutti al Parlamento. Voglio salutare Maurizio Tortorella, ercecato, eccolo qua, vice direttore di Panorama. Tecchiti. Abbastanza cecato, hai ragione, ma non così tanto. Qual è quello che ti appassiona di più come soprannome? A me è Rommel. Vorrei conoscere quel tipino fine che si fa soprannominare Rommel. Ma io è un romanzo. Una delle cose più belle secondo me è che Massimo Carminati avesse, secondo gli inquirenti, il suo ufficio in una stazione di servizio come dicono a Roma, a Corso de Francia, cioè in una zona che conosco bene, perché quando stavo a Roma è lì che all'inizio abitavo e mi fa una certa vicino di casa di Carminati, in pratica in pratica sì, vabbè. È una storia incredibile. Brutta, devo dire non diversa purtroppo da tante storie che abbiamo letto. Ah, sicuramente. Quali abbiamo scritto negli anni. È un paese che se questo è veramente quello che esce dalle carte, che uscirà dal procedimento, che ovviamente seguirà quasi senza speranza. Insomma. Quasi senza speranza. Io lo dico da tempo, mi danno del pessimista, del senza speranza. Io continuo a sostenere che questo paese sia ingovernabile, lo dico da sempre, ingovernabile, incontrollabile, perché la colpa di tutto per me è questa. Banale, siamo italiani. Ma voglio salutare Angelo Perrino, buongiorno direttore di Affari Italiani. Buongiorno. Direttore, tu chi hai scelto come soprannome di battaglia? Chi te piace? Come così? Ma se vuoi ercecato, mi pare. Ercecato. Sì, risponde questa menomazione di questo boss, cioè gli manca un occhio per precedenti esperienze. Sì, ne ha combinate abbastanza. E questa attitudine poi popolare di vendicare le persone attraverso i difetti fisici, che è un'antica tradizione italiana, si ritrova in queste carte straordinarie dei Carabinieri di Rossi. Però vi chiedo, chi rischia di perdere di più a questo punto, da questa vicenda? Beh, noi sicuramente, noi e l'Italia, perché è uno spaccato, l'ennesimo spaccato clamoroso, se confermato appunto poi, sembrano davvero delle intercettazioni in cui dicono pagavo questo, pagavo quest'altro, poi va tutto provato. Inoppugnabili le accuse, quando queste pagine si capisce che sono inchiodati alle loro responsabilità. Però vabbè, quello poi lo vedremo. Però Perrino, secondo te chi ci perde? Perché adesso spuntano anche dei fondi, dei finanziamenti alla campagna elettorale di Marino, 20.000 euro e 10.000 euro da due cooperative vicine a questo Buzzi. Però ecco, sì, chiaro che mi sembra... ci perde il sistema politico che nella sua continuità, a seconda che si alternino gli uni o gli altri, comunque attraverso personaggi, burocrati, uomini d'apparato del sottogoverno partitico, fanno lo stesso servizio, cioè si mettono d'accordo con i poteri criminali e vendono qualsiasi rivolo di denaro pubblico. Purtroppo c'è una piovra che si è impadronita dell'Italia e che non ha lasciato libero neanche la più piccola biblioteca del più piccolo paese di montagna laddove ci sia del denaro pubblico da investire. Ci hanno, come dire, spogliati di ogni cosa, spolpati. Sì. Sì, secondo te, Maurizio, chi ci perde? Chi rischia veramente politicamente di pagare il salasso più pesante? Adesso Renzi, avete visto, ha messo Orfini, ha detto facciamo piazza pulita, vuole proprio, come dire, via, fare togliere tutto il PD romano, però certo l'amministrazione Alemanno mi sembra quella più, come dire, compromessa da questa intercettazione. Però, voglio dire, gli hanno chiesto a Renzi, ma Buzzi, che è quel capo della cooperativa di sinistra, sì, che si occupava, c'era alla cena elettorale? E lui ha risposto seccato, ha risposto un po' seccato. No, ha detto non lo so. No, ha detto anche non lo so, ma ha detto non lo so, ma sono tutti pubblici i nomi. In realtà il Fatto Quotidiano dice che non sono pubblici, non li hanno trovati. Non sono tanto pubblici. Comunque il punto è che al di là della politica, che voglio dire, non gode già da anni, forse da decenni, forse da secoli in questo paese, di grande opinione, tant'è vero che questo è l'unico paese d'Africa al mondo, piove, governo ladro, ma forse il settore che ne esce più malconcio è quello delle cooperative cosiddette sociali. Ragazzi, ma si lucrava su tutto, si lucravano sugli migranti. Cioè, quello dice al telefono, ho intercettato comunque a io con l'immigrato guadagno più che con la droga. Sì. Effettivamente, se tu ci pensi, i fondi che sono 500 milioni all'anno versati per il sostegno all'immigrazione sono... No, ma incredibile, sui Rom, magari quei partiti politici che tuonano giorno dopo giorno contro l'immigrazione eccetera, magari avevano poi le cooperative, o meglio qualcuno legato alle cooperative, che lucravano sull'arrivo degli immigrati. Ora si spiega perché effettivamente a Roma, nel Lazio, c'era una marea di immigrati rispetto al resto delle altre regioni, Perrino? Forse cominciamo a capire, c'era qualcuno che ci godeva economicamente su questa cosa. Intanto facciamo un accostamento con Mani Pulite, no? Da allora noi cronisti, oramai con i capelli bianchi, che raccontiamo questa corruzione. Bene, almeno lì si facevano corruzione su grandi appalti, Enimont, piuttosto che... Adesso siamo arrivati alla corruzione della quotidianità, che coinvolge appunto il sociale. Dicevo ieri, nel fare questo instant book che abbiamo lanciato su Affari Italiani, le 1200 pagine, abbiamo messo in un libro fatto ieri in 6 ore, che è in un page di Affari, per chi volesse leggersi questo romanzo. Tutte le intercettazioni, tutte. Ci sono tutte, sì. Si clicca, 2,90 euro, mi faccio un po' di pubblicità, ma in realtà è un servizio che abbiamo fatto perché è giusto che tutti leggano questo romanzo criminale. Bene, si lucra su tutto. E poi un'osservazione, tu dicevi chi ci perde, Renzi eccetera, perché non mettono le mani per esempio su questa, il ruolo delle fondazioni nella politica? Non se ne parla, però il caso Alemanno tutto ruota intorno alla fondazione. Allora è bene che chi ci ascolta sappia, ma magari lo sa già, che ogni politico che si rispetti si è fatto la sua fondazione, perché sono attività economiche fuori dai partiti che, costruite intorno ai singoli leader, costituiscono poi questi cancri dentro l'attività politica, perché ognuno attraverso la propria fondazione riceve denari. E la vicenda di Alemanno, da dove si identificano in queste carte che sono da leggere, versamenti in corrispondenza con decisioni della giunta romana, ci fanno capire che queste fondazioni vanno messe sotto osservazione immediatamente, stanno rovinando la politica, e ci sono le fondazioni di destra e di sinistra. Tra l'altro, c'è chi mi scrive: questo è lo spaccato d'Italia, è triste, non serve essere in questo caso, secondo me, patriottici eccetera. C'è chi mi critica, che ha detto: ma come, noi italiani? Sì, noi italiani, il problema è che siamo italiani, dai, su, adesso non, al di là delle classifiche siamo in testa alla corruzione, anche ieri Transparency International, è così, per me questo è il mio parere. Ovviamente chi ha ben da gioire, no, perché voglio dire, Tortorella, adesso bisogna dirlo, abbiamo un po' tutti noi, anch'io ho fatto una trasmissione, rotto i maroni con questa storia del pandino rosso, il pandino rosso di Alemanno, di Alemanno, di Marino, adesso voglio dire, forse c'è qualcosa di un po' più marcio da guardare. Comunque, ovviamente, chi si fa sentire sono gli amici di Tortorella, il Movimento 5 Stelle, voglio vedere che cosa dici oggi, senti qui Di Battista, Chiediamo a Marino di fare un passo indietro prima che il suo comune venga sciolto per mafia, prima di lanciare davvero, di lasciare l'immagine della capitale, della mia città, sono fiero e orgoglioso di essere romano, associarlo alla parola mafia. Ecco, suggeriamo davvero a Marino di uscire, andarsene il prima possibile. Via Marino. Di Maio, vicepresidente della Camera. Adesso noi vi chiediamo di venire qui, di stringervi intorno a questi ragazzi, serriamo i ranghi e liberiamo il comune di Roma. Liberiamo il comune di Roma. Allora Maurizio, ma che dici? Che dici? Che c'hai da dire contro il Movimento 5 Stelle? Dico che fanno il loro lavoro, ed è anche giusto che lo facciano. Ho delle perplessità io personalmente, ma non vorrei sembrare un leguleio d'accatto sull'ipotesi dell'associazione mafiosa nei confronti dell'indagine. Perché io ci vedo molta corruzione, ci vedo malversazioni di ogni genere, ma la mafia è un'altra cosa, per carità. Carminati insomma, qua raccontavano anche comunque, commercianti vessati, te spacco la faccia, gli spacco le gambe. Anche nella Tangentopoli del 1992 c'era un'attività di pressione, di minacce, di estorsione. Insomma, non vedi la mafia come noi la intendiamo. Io non conto niente, ovviamente, dal punto di vista giudiziario e giuridico, ancora meno, ma non la richiesta di sciogliere il comune, perché tra le imputazioni sollevate dalla Procura di Roma c'è quella di associazione mafiosa, per carità, ci sta. È un po' troppo. No, ci sta, visto che è stata sollevata dalla Procura, non. Però vedremo, non mi pare una cosa intelligente, non mi pare il Movimento 5 Stelle fa il suo lavoro, ovviamente politicamente sì. Vabbè, ma dai, di Roma abbiamo parlato tanto, io vorrei farvi sentire un uomo, un eroe, un mito, una persona da fermare, basta, non se ne può più, fermatelo, indovina Perrino di chi sto parlando, lo so che c'è un interrogatorio in corso, ma io dico fermatelo, perché ogni parola che dice ha detto io venivo dopo Dio, solo dopo Dio. Ti aiuto Perrino, Ma dai, chi? Schettino sulla nave. Qua, ma perché Schettino? Perché a un certo punto alle domande del PM ha detto: ma che stiamo a rischio a tutto? Oh Schettino, sono morte 32 persone e sei sotto processo. No, arrischia tutto. A un certo punto ha detto: quelli del lato sinistro della nave non li ho aiutati perché scivolavano le scarpe. Ti abbiamo visto in giacca e cravatta lasciare la nave mentre con le mani in tasca, con le scarpe di cuoio. E l'altra faccia dell'Italia è proprio l'altra faccia della medaglia. Mamma cioè, mia. Come ci sono Air Forfora a Roma, Schettino è il comandante, senso di responsabilità di quelli che scappano via. Sentiamolo Schettino. Dopo Dio ci sono io. E quindi in quel momento non l'ho ritenuto opportuno in qualità di comandante. Primo dopo di Dio. Sulla base della mia percezione di comandante. Primo dopo nave, di Dio. Ma io dico, ma perché le devi dire certe cose? Anche se la sensazione, cioè vuol dire che lì contava lui. Primo dopo di Dio. È un'assunzione di responsabilità. Mamma mia ragazzi. Vabbè dai. Questi comandanti me l'avevano spiegato in una di queste compagnie. Perché? Loro vivendo sulle navi, si chiudono diciamo al mondo esterno per anni, magari anche decenni, e quindi con la lingua perdono il contatto e assumono fai l'avvocato di Schettino, il direttore? No, perché ho intervistato un comandante di una nave grandissima che sì. parlava come Schettino, sono tutti uguali, tra l'altro tutti nati nella zona di Sorrento dove pare ci sia una scuola, sì, e certo. hanno davvero, avevano difficoltà a farmelo intervistare perché dicevano con l'italiano ha dei problemi, però era, capiva benissimo che era primo dopo di Dio. A un certo punto gli ha detto: perché non ha dato l'abbandono nave? Non ho dato l'abbandono nave, se no tutti si tuffavano. Vedi, parlano così, si tuffano. Vabbè. Allora, andiamo al traffico. Dopo vi voglio far ascoltare, dopo la segreteria telefonica, un Don Mazzi dannata, perché è un Don Antonio Mazzi che abbiamo solo noi. Vi spiego tra poco perché. 24 mattino. Buongiorno Milan. Sto sentendo del bulgaro, indecente. Pensi che a me è andata peggio dalle parti della Romea. Due volte che sono passato ho preso due multe. Una volta perché superavo il limite di 4 km orari, una volta di 1 km orario. A me è andata peggio del bulgaro. Erbiondo, ma che caro Erbiondo. Una volta eri biondo, mo non ne hai più. Milan, le mani sul volante per le dichiarazioni di Schettino e del suo avvocato? No, le mani sul volante le dovremmo tenere quando sarà assolto per insufficienza di prove. Capitano Schettino, per cortesia, non fare il cretino. Capitano Schettino, ricordati che è segnato il tuo destino. Signor Capitano Schettino, tu che cosa pensi, che è uno scherzino? Caro Capitano, stai facendo troppo il furbo. Milan, ma dove è stato il nome di una volta? L'accecato, il porco. Ma i soprannomi dei tempi dei film di Milan, di Thomas Milan, dove praticamente c'era Venticello, che sembra una poesia, invece era solo uno che aveva dei problemi di aerofagia. Dove sono finiti? Ah, non ci sono più delinquenti di una volta. Thomas Milian, non Milan, Thomas Milian. Va bene, questi nostri ascoltatori. Siamo con Angelo Perrino, direttore di affariitaliani.it, e Maurizio Tortorella, che è il vice direttore di Panorama. Oh, vi devo far sentire questa di Don Mazzi. Allora, due giorni fa ero all'Eifer Day, che è una giornata, una fiera organizzata dalla Sofermet, cioè tutta la filiera delle ferramenta, un settore molto molto ricco, molto produttivo lì, molto, ho visto molte persone che si danno da fare, un settore in crisi come tanti, però insomma stanno cercando di darsi da fare per migliorare. E c'era Don Mazzi. Allora Maurizio, Don Mazzi, sai cosa ha detto di recente sull'Expo, Don Mazzi? Allora gliel'ho richiesto, no? Questa storia dell'Expo. Sentite Don Antonio Mazzi che cosa ha detto in questo convegno dell'Assofermet. Sentite, sull'Expo. Spero che l'anno 21 ad ottobre vada fuori il Lambro, come è andato fuori, che allaghi il metro verde, che tutte le stazioni siano senza metro e che tutta l'Europa ci prenda per il culo, va bene? Eccolo qui Don Mazzi, Maurizio, cristianamente. È dantesco. Di persona, sembra veramente... Vuole il contrappasso, siccome lui della sua comunità Exodus è dovuto andare via perché è esondato all'Ambro, spero che esondi tutto e tutta l'Europa ci pigli per il culo, Perrino, hai capito? Mi pare che abbia compiuto 80 anni e forse sta dando qualche sintomo di squilibrio. No, Don Antonio! Con tutto il rispetto, però insomma, dai. Non toccarmi. Un prete di strada, non si può. Lui ha detto, siccome qua quando esonda l'Ambro nessuno fa niente, la mia comunità, eccetera, allora spero che ci piglino per il culo, che esondi tutto. Cazzi e mazzi, se non fosse una brutta parola. Cos'è che potremmo dire? Cazzi e mazzi. Cazzi e mazzi, potresti fare una rubrica su affariitaliani.it e affidala a Don Mazzi. Cazzi e mazzi, sentite, mazzi vostri, che vabbè, e qua andiamo avanti. Fate oggi qui, perché sennò, come ha detto Antonio Razzi, fatti li mazzi tua. Esatto, ma sentite, te lo dico da amico. Fatti li mazzi tua. Sentite ancora Don Mazzi, su a un certo punto gli ho chiesto, c'è un qualcuno, si parlava di etica, no? E fare impresa e con l'etica, c'è qualcuno che ti ispira eticamente, qualcuno su cui punti dal punto di vista politico? I politici sono una cosa, la politica è un'altra. Senza politica seria non si vive. Adesso non confondiamo la politica con alcuni politici. Sono amico, ero amico di Renzi quando faceva il Boy Scout. Proprio ieri ho detto che lo preferisco Boy Scout, va bene? Ah, ecco, eccolo lì Maurizio, hai capito? Don Mazzi. Don Mazzi, bene, adesso. Quando uno va in televisione, quando un prete va troppo in televisione, secondo me poi i risultati si vedono. Eccolo là. Oh, ma ragazzi, mi state distruggendo, Don Antonio! Un mito, no, dai, un mito, dai! Io devo dire che è bravo perché non va come accade invece in Italia il soccorso del vincitore. Cioè adesso che Renzi vince, lui dice lo preferivo quando era meno potente. Effettivamente, effettivamente. Questo gli fa onore, no? Gli fa onore, gli fa onore, Maurizio? No, niente, non lo si schiude. Sono un agnostico. Vabbè, ma l'ho chiesto un agnosto, sei un paragnostico. Allora, se sei paragnostico, dillo. Allora, meno preti più prati, esatto, esatto. E non facciamo le rime meno Mazzi, vabbè. Allora, no, no, per carità, devo dire che in copertina di Panorama, e in questo momento mi sto inchinando, senti che la voce si allontana perché mi inchino, mi metto in ginocchio, c'è il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, ma che, l'avete intervistato? Certo, una bella intervistona nella quale prende un po' le distanze da Matteo, non come Don Mazzi, ma quasi, insomma, gli dice che deve fare un sacco di cose che non ha ancora fatto. Ed è un'intervista interessante. Volevo segnalare che su panorama.it, così come lo ha fatto Perrino per sì. Affari Italiani, c'è il documento integrale delle 1200 pagine, quindi anche lì se si vuole. Avete fatto l'Instant Book, Maurizio? No, via, no, siete indietro. Siete indietro, vabbè, vi lascio nel salutarvi facendovi sentire buon anno l'eurodeputato contro Tarabella. Chi è Tarabella? Non lo so. Buon anno, s'appiccica con tutti, sentitelo. Volevo anche aggiungere una cosa igienico-sanitaria, siccome io faccio il sindaco. Ma est-ce que tu les plus comment expliquer leurs amendements? C'est impossible, ça, hein? Ma tutti vanno a spiegare questo amendamento, è possibile. On sera jamais sorti de l'auberge si tout le monde explique les amendements. Posso parlare? Non ne usciamo da questa situazione se ognuno interviene sul suo amendamento. No, chiudila. No. Ma chi è che parla? Tarabella, il tuo amico. Tarabella è sempre il solito rompicoglioni. Eccola. Sei tu il rompicoglione. Mettila, sei tu il rompicoglione. Sei tu. Ma tu e tuoi amici. Anche te, Sommaro. Posso finire di parlare? Posso finire di parlare? Posso finire di parlare? Vi chiedo di mantenere la calma. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. E allora siamo qui, sono le 7:17 minuti, cari ascoltatori, vi ricordo che oggi parleremo anche noi di questa Roma, di questo Ercupolone, nel senso della cupola mafiosa a Roma, la mafia autoctona, la mafia romana. Avremo ospite Giancarlo De Cataldo, ex magistrato, scrittore, autore di Romanzo Criminale, quello che poi ha anticipato, quello che leggiamo poi sui giornali, ha raccontato la banda della Magliana, lui, e ora molte delle intercettazioni rivelano proprio quello spaccato che Giancarlo De Cataldo raccontò nel suo libro, oltre ad averlo visto con i propri occhi da magistrato. Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera sarà nostra ospite, così come l'onorevole Khalid Shawki, responsabile immigrazione del PD, visto che si è scoperto che si lucrava su tutto, soprattutto sugli immigrati, sui rom, fonte di denaro per la gestione dei campi rom, per la gestione dell'immigrazione. E allora andiamo a leggere i giornali che trovate in edicola. questo giovedì 4 dicembre. Le aperture sono proprio dedicate a questi due temi, quello di Roma e che cosa il Jobs Act approvato ieri in via definitiva al Senato. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore, contratti, articolo 18, al via la riforma del lavoro. Mentre ecco qui, Roma, il tariffario dei politici, Corriere della Sera, busta con 570.000 euro trovata nell'abitazione di un funzionario del comune. Repubblica, il tariffario dei politici corrotti, scure di Renzi sul PD di Roma. La Stampa invece, sì al Jobs Act, cambia l'Italia. Il Messaggero, Renzi commissaria il PD romano. Il Giornale, la cupola controllava i voti PD. Il Fatto Quotidiano, ora Renzi scarica il PD di Carminati. Libero, il grande affare degli immigrati. Eccolo qui il titolo. Fruttano più della droga, dice Buzzi intercettato. Mentre per il Manifesto il titolo, mal partito, la cupola mafiosa capitolina fa cambiare verso alla campagna contro il sindaco Marziano. Questo è il titolo di prima pagina. Partiamo proprio dalla inchiesta, le oltre 1000 pagine di intercettazione che regalano degli spaccati clamorosi nella lettura. Poi tutto ovviamente va confermato dal punto di vista processuale. Il Sole 24 Ore racconta che ora c'è la regione nel mirino della procura. Questo è il titolo a pagina 11. Due agenti, tra l'altro, intercettati che rivelarono a Carminati: attento, sei sotto inchiesta. Carminati è ercecato, Ercecato, quello che nel romanzo criminale era il chi? Il nero. Sì, interpretato da Scamarcio nel film. Racconta il Sole 24 Ore ora la regione è nel mirino della procura e questa è l'inchiesta in cui, ricordate, c'è Ercecato, Er Rommel, Er Watson, Er Forfora, Er Maialotto, Er Porcone, Er Nero, Er Pirata e tutti a cena da Er Bruttone quando era finita la giornata. Non è una barzelletta, è proprio la verità. Ma sentite qui, le buste di soldi nei muri di casa. Rinaldo Frignani e Ilaria Sacchettoni racconta la pagina 2 del Corriere della Sera come siano stati trovati 570.000 euro in buste del comune murati in casa di Claudio Turella, dirigente del servizio giardini in carcere. Che dice lui? Risparmi di una vita. Ecco, anche le buste di soldi nei muri di casa. E poi c'è il libro nero che è stato trovato a casa della segretaria di Salvatore Buzzi, considerato dagli inquirenti il braccio destro di Massimo Carminati, colui che gestiva la cooperativa 29 giugno, che poi faceva molti soldi con gli immigrati e i Rom. Nella casa della sua segretaria è stato trovato il libro nero e si vantavano anche nelle intercettazioni: guarda com'è nero questo libro. In questo libro nero che cosa c'era? Beh, c'era proprio annotata, secondo i magistrati, gli stipendi fissi, i versamenti, tutto ciò che veniva dato ai dirigenti, ai politici. Eccolo qui. Pagina 3 del Corriere, Fiorenza Sarzanini. Nel libro mastro delle tangenti ci sono nomi e cifre. Un lunghissimo elenco di politici, funzionari politici che i carabinieri del ROS, guidati dal generale Parente, hanno trovato durante la perquisizione a casa di Nadia Cerrito. Anzi, è la moglie, non la segretaria, la moglie di Salvatore Buzzi, anche lei finita in carcere. Tutti avevano un prezzo e la regola era chiara, bisognava pagare per avviare la pratica e versare altri soldi quando l'affare era chiuso. Eugenio Patanè, per esempio, consigliere regionale. Il 16 maggio 2014 veniva intercettato un dialogo di estremo interesse investigativo nel quale Buzzi informava i presenti della richiesta di 120.000 euro avanzata da Patanè. Buzzi si mostrava restio. A Panzironi, che comandava, gli avevamo dato il 2,5%. 120.000 euro su 5 milioni. Mo damo tutti sti soldi a questo. E 10 giorni dopo sbotta, gli abbiamo dato 10.000 euro per carinerie e lì finisce, non gli diamo più una lira. Questo per il consigliere regionale Patanè. Ma il 30 dicembre del 2013 Buzzi parla con Paolo Di Ninno e accenna all'acquisto di un appartamento per Angelo Scozzafava, direttore del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali del Campidoglio. Accenna questo o il prezzo con Scozzafava e va bene l'ipotesi per lui, perché noi vuol dire risparmiare 200.000 euro, insomma devi trovare una cosa piccola per 130.000 euro. E Di Ninno chiede, vanno bene questi due, Buzzi, associazione cooperativa che aderisce a Eriches, che si intesta l'appartamento, un appartamento che stia molto vicino a 130. Ecco, secondo gli inquirenti si parla di un appartamento da acquistare per un dirigente del comune e così via. Versamenti, stipendi fissi, tutto a libro paga, questo secondo i magistrati. Anche Repubblica dedica proprio pagina 4 a questo, 100.000 euro, li mortacci, mi chiede questo. 100.000 euro. Nel libro mastro della cupola i doppi stipendi dei politici. Panzironi 15.000 euro al mese, Pucci 5.000, Odevaine 5.000, Patanè 10.000 una tantum. E poi Alemanno 75.000 euro in cene elettorali, Gramazio 4 persone da sistemare. Ed ecco qui che si vantavano. Hai visto che il libro è nero, è proprio nero, guarda. Nelle intercettazioni spunta, tra l'altro scrive Repubblica, anche il finanziamento per l'elezione di Marino, cioè spuntano due finanziamenti, uno da 10.000 euro effettuato dalla cooperativa 29 giugno, quella di Buzzi, un altro da 20.000 euro dal consorzio Eriches 29 per finanziare cene elettorali di Marino. Questo scrive Repubblica. Succede che in questo delirio ci sono anche due agenti di polizia intercettati che vanno a un certo punto ad ascoltare, a parlare con Massimo Carminati, Ercecato, protagonista già della banda della Magliana, e gli dicono stai attento perché sei sotto indagine, avete capito? Due agenti di polizia. Racconta tutto Giovanni Bianconi a pagina 6 del Corriere. A un certo punto uno gli dice ma è vero che tu hai sparato in passato ad un agente? Ah, sono affascinato, cioè un collega, sono affascinato, ti ascolterei per due giorni a te. Questo due agenti di polizia. Questo racconta il Corriere della Sera, ma già nell'intercettazione era venuto fuori. Va bene, Renzi che ha fatto? Renzi ieri è andato in TV dalla 7, da Enrico Mentana, bersaglio mobile, si è esposto a tutte le domande di Travaglio, di Da Milano, di Enrico Mentana. E ai suoi, come racconta pagina 2-3 del Corriere, dice bisogna agire subito e spazzare via tutto. L'obiettivo? Fare pulizia nel PD romano. Per questo ha subito accolto le dimissioni del coordinatore del PD Cosentino e ha messo Orfini, che è il presidente del PD, come commissario a Roma. Il premier ordina spazzare via tutto. Però poi non ha risposto, meglio ha risposto un po' stizzito, alla domanda di Travaglio sul fatto se Buzzi abbia partecipato o meno a queste cene elettorali, cene non elettorali, cene di finanziamento del PD di recente a Roma. Non lo so, comunque l'elenco è pubblico, ha detto Renzi. Il Fatto Quotidiano, per la verità, dice abbiamo cercato l'elenco dei partecipanti, ma non è pubblico. Anche stizzito è il ministro Poletti, Giuliano Poletti, perché nell'indagine è finita anche questa foto in cui cenava con altre persone, tra cui Alemanno e tra cui anche questo Buzzi, che è presidente di questa cooperativa sociale 29 giugno. Ma intervistato dal Messaggero, Giuliano Poletti dice basta, questa foto è una roba vecchia, io ero lì come presidente della Lega Cooperative e lui era il presidente di una cooperativa. È come se il presidente di Confindustria o della Confartigianato, di qualsiasi associazione di rilievo, va a una cena. È ovvio che partecipi a iniziative, incontri persone, ma il Messaggero chiede ma anche mafiosi? Guardi che se hai un ruolo pubblico inevitabilmente partecipi a migliaia di incontri e non puoi certo conoscere tutti quelli che aderiscono alla stessa iniziativa. Su questo, ragazzi, cioè, ha perfettamente ragione. Qua non si tratta di difendere nessuno. Anch'io quando vado alle iniziative la gente mi chiede fammi un selfie, facciamo un selfie, e sono un povero pirla. Immaginate un ministro, un sindaco. Se mi chiede di fare un selfie un disgraziato e poi ma tu conosci quel disgraziato? Ma no, l'ho incrociato lì, mi ha detto facciamo una foto, ma Vabbè, comunque, Giuliano Poletti si difende sul Messaggero, dire è sgradevole tirarmi in ballo per questa foto. Oh, gli affari li facevano tutti, l'affare con gli zingari, l'affare Zingari vale 24 milioni ogni anno, il titolo Zingari è sul Fatto Quotidiano, eh. L'affare Zingari vale 24 milioni di euro l'anno, e anche Libero punta proprio su questo. Il titolo di prima pagina, il grande affare degli immigrati. C'è questa intercettazione in cui Buzzi dice: oh, ma sai quanti soldi faccio coi migranti e coi rom? Me rendono più del traffico di droga. Non che lui traffichi droga, ma per dire, era un paragone, rendono di più di questo. Oh, in tutto questo marasma di, come dire, definitelo voi, di melma, diciamo così, Avvenire invece intervista l'assessore al Comune di Roma, Rita Cutini, 53 anni, assessore servizi sociali, che nelle intercettazioni era definita da Buzzi una inavvicinabile, tanto che dice Buzzi: con lei stiamo proprio messi male, con la Cutini stiamo messi male, la cupola contro di me perché esigevo trasparenza. Rita Cutini dice: quando sono arrivata c'era il caos amministrativo, ora ho capito la campagna denigratoria nei miei confronti, talvolta avvertivo un senso di solitudine, ho pensato che fossero dinamiche politiche di potere, magari non belle ma fisiologiche, dovute al fatto che non sono legata a partiti. Ora che conosco i fatti comincio a pensare che può esserci dietro una regia negli attacchi contro di me. L'assessore Cutini dice: così hanno provato a delegittimarmi. Mamma mia, che mare magnum di articoli. Vabbè, ma approfondiremo anche alle 8:15. Intanto è il momento dell'articolo Mani sul volante, o meglio, come qualcuno ci ha scritto ieri, Mani sul timone. Articolo che ci fa pensare di questa giornata. Torna ancora lui, il comandante, o comandante Schettino. Nel secondo giorno di interrogatorio, ecco qua l'articolo che ci fa incazzare. Marco Gasperetti sul Corriere della Sera, pagina 27, racconta, sentite cosa dice Schettino, già il titolo: sulla nave venivo io dopo Dio. L'abbiamo fatto sentire, io primo dopo Dio sulla nave. E poi ancora racconta, a un certo punto, al PM che fa domande insistenti, lui guascone: ma dove siamo? Arrischia tutto? Comandante, comandante! E poi ancora, ma perché non ha aiutato quelli del lato sinistro della nave? Mi scivolavano le scarpe perché la nave era inclinata. Comandante, comandante, sono morte 32 persone! No, non siamo arrischia tutto! Non siamo al rischia tutto! Adesso per te saranno volatili per diabetici. Ma è un quiz? Saranno cacciaveri! Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Ecco, il boss, er boss de Roma, er boss. Va bene, allora... L'altra notizia su cui aprono i giornali è l'approvazione definitiva al Senato del Jobs Act. Come abbiamo detto, una legge delega, una legge che ha bisogno dei decreti attuativi, di essere riempita, insomma, per capire. E il responsabile economico del PD, Taddei, intervistato dalla Stampa, da Alessandro Barbera, pagina 2, dice: il primo decreto attuativo sarà a gennaio. Comunque, sia il Jobs Act, contratto a tutele crescenti al via, questo è il titolo di pagina 3 del Sole 24 Ore con Giorgio Pogliotti, che racconta che cosa cambia, cosa si prevede, ovviamente in attesa dei decreti attuativi. Renzi dice: questa è l'Italia che cambia davvero. Solo nel PD, solo Mineo ha votato contro la fiducia al Senato, è arrivato con 166 sì, 112 no. Ieri ci sono stati anche degli scontri, manifestazioni davanti al Senato, e scontri e cariche della polizia, c'è qualche ferito. Di persone che manifestavano proprio contro l'approvazione del Jobs Act. Questo anche a pagina 10 del Corriere della Sera. Stiamo a vedere però ovviamente i decreti attuativi. Tra l'altro racconta politicamente Alessandro Trocino sul Corriere della Sera, riforme partiti, Renzi ora all'attacco. Renzi, che è intervenuto ieri da Enrico Mentana, abbiamo detto, ha parlato non solo della mafia a Roma, cosiddetta mafia a Roma, ma ha parlato anche delle riforme. Ce la possiamo fare, ho girato l'Italia come un ossesso e continuerò a farlo, mi sento più il sindaco d'Italia che il presidente del Consiglio. E poi c'è stato uno scontro con Travaglio. Oggi col Jobs Act c'è stato il superamento dei Co.co.pro, abbiamo tolto gli alibi agli imprenditori, dice Renzi, e Travaglio risponde: ma si è scelto di fare dell'articolo 18 una bandierina ideologica, e Renzi, hai scelto tu di farlo. Il giornalista però, Travaglio, ribatte: avete copiato la delega di documento sul lavoro di Confindustria? No, risponde Renzi, non copiamo leggi dagli imprenditori, io non sono neanche andato all'assemblea di Confindustria. E ancora Renzi torna a parlare dei sindacati e dice: la legge di stabilità non la tratto con loro, rivendico il diritto della politica di fare le leggi. E ancora, cosa ha fatto nel semestre europeo? Renzi risponde così a Marco da Milano: si può fare meglio, ma qualcosa si è fatto. Il 18-19 dicembre andrò al Consiglio europeo a dire: sblocchiamo dal patto un po' di investimenti. Insomma, un Renzi che replica: noi facciamo le cose. Sta di fatto che stiamo a vedere appunto questi decreti attuativi che arriveranno. Oh, noi abbiamo avuto ospite qualche giorno fa, come sapete, il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone. Ci aveva colpito questo articolo che lui ha scritto sulla Stampa, in cui ricordava i periodi dell'occupazione delle scuole con anche una nostalgia, e ha scritto nell'intervento sulla Stampa che sono quasi le ore più preziose che ha passato a scuola, ancor più delle ore normali di lezione. Da allora, lo abbiamo avuto anche ospite noi, c'è una scuola, una parte della scuola in subbuglio per queste dichiarazioni. Ci sono anche petizioni che chiedono le dimissioni di Faraone. Oggi la Stampa torna con una pagina su questo tema: scuole occupate, rivolta contro il sottosegretario. C'è stato anche un sit-in davanti al Ministero. I dirigenti scolastici del liceo Tasso a Roma attaccano il sottosegretario, ha incitato all'illegalità. E hanno fatto una manifestazione. Tra l'altro c'è da dire che anche l'altro sottosegretario del Ministero, Gabriele Toccafondi, ha preso le distanze da Davide Faraone. Degli anni delle occupazioni ho un ricordo negativo, dice Toccafondi. Ho finito la scuola negli anni della Pantera, allora c'erano minoranze violente che non facevano parlare chi non era d'accordo con loro. Insomma, gira anche la petizione lanciata dal gruppo di Firenze, un'associazione di dirigenti toscani, che chiede le dimissioni del sottosegretario che ha elogiato le occupazioni studentesche per grave inadeguatezza del suo ruolo istituzionale. Al momento sono state raccolte 500 adesioni di prof e presidi di tutta Italia. Vabbè, vedremo, magari domani torneremo su questa vicenda che ha visto protagonista e vede protagonista Faraone. Mentre, a proposito di lavoro, oggi Libero mette in prima pagina una storia concreta di un'azienda, di un uomo che è morto, che era il titolare di questa azienda, e di una storia così che io vi giro senza giudizi, ma come raccontata da Libero: imprenditore muore e lascia l'azienda in eredità ai dipendenti. Francesco Specchia racconta su Libero in prima pagina la storia di Leonardo Martini, un eroe sotto traccia, lo definisce, produttore di cruscotti per auto dalla creatività invincibile, che vedeva nella propria azienda, la Dioma di Vicenza, un possente scrigno d'affetti. Morto a 72 anni, non aveva figli, Martini lascia ora l'azienda in eredità ai suoi 25 storici dipendenti. Un miracolo laico che pare scritto da Zavattini. Gli operai, secondo specifica volontà testamentaria, dopo averne celebrato il funerale senza rito religioso, acquisiscono la proprietà di una florida impresa dal 67 esportatrice anche in Germania per Audi, Volkswagen e Saeco. Quel che l'altro giorno è accaduto nel Veneto, oppresso dai suicidi, ignorato dallo Stato, troppo spesso sottostimato dalle cronache, è la risposta silenziosa agli strali dei Landini, delle Camusso del mondo, scrive Libero. L'Italia non è fatta soltanto di padroni crudeli dediti allo sfruttamento dei sottoposti, è fatta anche e soprattutto di molti Leonardo Martini, la cui vita rende l'idea plastica del vero tessuto connettivo della nazione. Avercene, chiude così Francesco Specchia il suo racconto su Libero. È una vicenda che finisce anche in prima pagina della Stampa con il buongiorno di Massimo Gramellini dal titolo Capitale Umano. Scrive Gramellini: poi per fortuna ci sono ancora storie come questa. Leonardo Martini, artista dei cruscotti per auto, intorno al suo talento imprenditoriale aveva costruito una piccola azienda che dava da vivere a 25 famiglie nel Vicentino, e alla boa dei 70 anni è stato colto da un male rapido e implacabile. Non aveva figli e la sua ossessione era che la fabbrica a cui aveva dedicato l'esistenza finisse in mani asettiche o malfidate. Così sul letto di morte l'ha lasciata ai suoi operai, i quali forse adesso si scanneranno dando ragione alla massima secondo cui l'unica società che funziona è quella dove gli azionisti sono in numero dispari inferiore a 3. O magari no, perché l'esempio non muore necessariamente con chi lo dà. Ma qualunque sarà l'esito finale dell'eredità di Martini, nulla potrà cancellare la speranza che il gesto di quell'uomo ha donato a questi giorni tristi e terribili, attraversati da lupi mannari che straziano le carni di una comunità nazionale già indebolita dalla crisi con sopraffazioni continue. Il capitalismo sociale non è un controsenso, ma un pezzo di storia italiana che forse ci eravamo dimenticati. In Italia non tutto è mafia, non tutto è corruzione, finanza spietata che sposta i capitali come fish, infischiandosene delle conseguenze sulla vita delle persone. Esistono e resistono tanti Martini che si ostinano a credere e considerare la loro azienda un bene comune e i loro dipendenti degli esseri umani, degli amici, talvolta perfino dei figli. E allora è il momento del chitarra. Mauro Meazza, buongiorno. Caro Erpiazzetta, caro Erpiazzetta. No, perché ieri dicevi Erbiondo, però Erbiondo. Poi, guardando hai visto meglio, bene, hai detto Erpiazzetta. Si vede la radio, la piazzetta. Sì, guarda la mostra adesso, eccola qua. Ecco, potete un attimo la piazzetta ai radioascoltatori. Ecco, aspetta, da questa parte si vede meglio. Sì, ecco sì, guarda che non è che abbiamo tanto tempo di star qui a cantare e suonare, perché oggi c'è la decisione della BCE, speriamo, su questo, queste misure di quantitative easing, hai presente? No, non sì, hai... Sì, certo. Ecco, no, hai letto l'Ops, devi leggere Vito, l'Ops sul Vito Sole 24 Lops. Ore, ecco, anche Alessandro Melli, però anche Vito l'Ops. A proposito, poi ho letto sul Sole 24 Ore che Londra sta studiando una tassa, la chiamano Google Tax, ma in realtà serve a colpire proprio quelle multinazionali che, come dire, fanno un po' le furbette e fanno grandi redditi in un paese ma pagano poche imposte, perché dicono che insomma no, ma in realtà le ho pagate nell'altro stato e così via, sai, un po' come quando si va esce dal ristorante uno dice no ma paga il mio paga amico paga... Cioè. Esatto. E loro ci stanno studiando, perché hanno, anzi l'hanno già annunciata a dir la verità, però devono attuarla, e come sai l'attuazione è sempre un momento delicato. Lo vedremo con il Jobs Act, di cui appunto già oggi proviamo a fornire qualche anticipazione sul decreto attuativo, proprio per la parte dell'articolo 18, che poi è una delle più delicate, come sai, oltre al contratto, il nuovo contratto a tutte le crescenti. E poi che ti voglio dire, Anna, ci sarà una proroga per l'IMU dei terreni, sei contento? Tu che sei il proprietario di grandi vari, svariati latifondio. Esatto, tu caro Milan latifondista avrai una proroga per il pagamento dell'imposta, perché stai in questi comuni ex montani, cioè prima considerati di montagna e poi non più, ecco, ci sarà un rinvio. Mi sono scordato di dirti, a proposito del Jobs Act, che abbiamo anche un ebook, un libro digitale sul sito che spiega appunto i contenuti delle norme appena approvate e anche individua i vincoli per cui si darà poi attuazione a tutte queste norme. Comunque Erchitarra, mi fanno notare via SMS che si dice Erbionno senza Erbionno. Di Erbionno, ma io ho detto Erpiazzetta, infatti. Ma Erpiazzetta, dai, ma che e comunque come tradisce il mio cognome, insomma, non è esattamente la mia prima lingua, quella del romanesco, quindi mi scuso se per questi difetti di pronuncia, questi errori di pronuncia. Ti voglio dire solo un'ultima cosa, cioè che domani con il Sole 24 Ore c'è How to Spend It. Siccome yes, che è il nostro magazine, ecco, siccome è atteso oggi il voto finale sul rientro dei capitali, e allora tu finalmente ti rimetti in regola e domani leggi How to Spend It, spenderli, giusto. E vedi come spenderli, perché così la finiamo con questa nozione di due urini domani, con Air Magazine. Air Magazine, sì, caro Erpiosetto, domani con Air Magazine facciamo, prendiamo due notizie insieme, no? Da una parte il rientro dei capitali, soprattutto il rientro stavi dei dicendo capitali. Se prendiamo due piccioni con una fava, ma sentivi un po' troppo schettino, poi sì, ero un po' condizionato da recenti vicende di cronaca. Hai ragione. Alessandro Milan, il sindaco dell'informazione. Er sindaco, allora, Santa Croce Camerina, provincia di Ragusa, se leggete i giornali, e ormai da 48 ore, o meglio da un po' meno, ma comunque da ieri mattina, si profila uno scenario inquietante, uno scenario ben diverso rispetto a quello a cui si pensava nelle prime ore riguardo alla scomparsa, l'uccisione del piccolo Loris. Ormai gli inquirenti sono convinti di una cosa, che la madre abbia mentito. La madre non ha mai portato Loris a scuola. Si capisce, ieri si diceva delle telecamere che riprendono la macchina della madre senza mai il bimbo filmato dentro. E come raccontano tutti i giornali, la scientifica dalla mamma di Loris, pagina 8 del Corriere della Sera. Il bimbo, secondo i filmati, non sarebbe salito sull'auto ma tornato a casa. Ed è una bugia clamorosa quella della mamma. Ora tutti a chiedersi perché abbia mentito dicendo l'ho portato fino davanti a scuola. Anche la stampa, video, bugie, incongruenze, le ombre sulla mamma di Loris. Ancora il secolo XIX, Marco Menduni. È l'articolo forse migliore che racconta i segreti di Veronica, la messa in scena davanti alla scuola. Scrive Menduni, all'inizio è stato un mistero crudele di orchi e bambini, ora la soluzione del giallo ruota tutto intorno alla bugia di una madre. Veronica ha sicuramente mentito, mentre non mentono le telecamere che l'hanno inquadrata e che raccontano con brutte immagini in bianco e nero una verità inconfutabile. Loris non è mai andata a scuola. Loris è tornato a casa la mattina in cui poi è scomparso e ora si apre un ventaglio di possibilità. Al centro c'è sempre lei, Veronica Panarello, madre di 25 anni che affrontava la vita quotidiana da sola, districandosi tra le faccende domestiche e gli impegni dei figli perché il marito lavora lontano. Certo, il fatto che il figlio sia tornato a casa da solo non autorizza conclusioni affrettate, equazioni troppo semplici, ma gli investigatori sono ormai convinti che Loris sia stato ucciso nella sua casa di via Garibaldi. Per questo ieri l'hanno perquisita per ore, hanno sparso dappertutto il luminol, la sostanza che evidenzia tracce di sangue. Per questo hanno cercato lo zainetto, scomparso anche questo, dello scolaro, nelle vicinanze dell'abitazione, negli anfratti, nelle intercapedini. C'è sullo sfondo di queste ricerche il sospetto terribile, la momentanea perdita della ragione, un'azione in preda a uno stato passionale momentaneo, come spiegò la Cassazione nella sentenza definitiva su Anna Maria Franzoni nel caso Cogne. E insomma, il fatto che appaia nell'articolo questo paragone dice qualcosa. Per carità, no conclusioni affrettate, ma gli inquirenti ora puntano a questo. Tra l'altro c'è l'altra persona, Orazio Fidone, il cacciatore, come è chiamato da tutti, colui che ha trovato il corpicino di Loris, che rimane comunque indagato. E Felice Cavallaro racconta sul Corriere della Sera che ieri si è presentato normale, sereno, al bar del paese a bere il caffè con gli amici. Dice: io ho un alibi facilmente verificabile. Sabato mattina ero con mia moglie a Vittoria al mercato e visto che controllano i filmati si prendono anche quelli del mercatino che registrano gli ingressi a Santa Croce a Vittoria. Controlli in parte già fatti, anche se sembra, scrive il Corriere, ci sia un buco orario da spiegare, visto che il viaggio a Vittoria comincia dopo le 10 del mattino e può darsi che sia compatibile con gli orari dell'uccisione di Loris poco prima delle 10. Comunque, l'inchiesta ovviamente va avanti. Mi sposto all'estero, dove in America c'è ancora tensione perché c'è un secondo caso a pochi giorni dal caso del Missouri. Un secondo caso di un poliziotto che non verrà processato, così ha deciso il gran giurì, dopo che ha arrestato un signore, Eric Garner, 49 anni, nero, e l'ha letteralmente, durante la fase d'arresto, strangolato. Si sente questa persona, Eric Garner, durante l'arresto, che dice: non riesco a respirare, e il poliziotto che gli mette il braccio attorno al collo. Questa persona muore durante l'arresto, soffocò un nero prosciolto agente. Proteste a New York, racconta Massimo Gaggi a pagina 25. 9 giorni dopo le proteste di Ferguson, un'altra sentenza di un grand jury che assolve un poliziotto bianco per l'uccisione di un nero disarmato e rischia di spostare l'incendio delle tensioni razziali a New York. Ieri si è deciso di non incriminare il poliziotto che il 17 luglio soffocò Eric Garner nel tentativo di arrestarlo, e migliaia di manifestanti sono scesi in piazza in vari punti di Manhattan. Anche per Repubblica ci sono anche i video di questo arresto che portò all'uccisione. Anche a New York un caso Ferguson, graziato la gente che uccise un nero. Mentre invece Le Figaro, cosa ha fatto il quotidiano francese? Le Figaro ha pubblicato alcune delle mail e delle lettere che i jihadisti improvvisati, cioè gli europei che sono andati a combattere in Siria, hanno spedito ai loro familiari. E ne viene uno spaccato abbastanza clamoroso, qualcuno le definisce i bamboccioni, altri come Repubblica, i mammoni. Se i jihadisti si scoprono mammoni, sono partiti dalla Francia per la Siria o per l'Iraq, volontari dello Stato Islamico che scrivono a casa ai familiari: voglio tornare indietro, fa freddo, voglio tornare indietro, mi si è rotto l'iPod, voglio tornare indietro, mi mettono solo a lavare i piatti, voglio tornare indietro, mi vogliono mandare al fronte ma io non so combattere. A che immaginavate di andare a fare, belli fresconi, a fare il jihad, a fare la guerra nello Stato Islamico, a fare che? A fare che fa freddo, mi si è rotto l'iPod, voglio tornare da mamma e papà. Bravi, bravi. Eccolo qui anche sulla stampa: l'amara jihad dei giovani europei, le email dei combattenti in Siria, ci sfruttano, fa freddo, come faccio a tornare indietro? Bravi, bravi, complimenti. Complimenti anche a Bertone, il cardinale, ex segretario di Stato Vaticano, a 80 anni. Va a vivere finalmente nell'attico ristrutturato, racconta Repubblica, da 350 metri quadri. Un lusso per qualcuno, normale routine per lui, che definisce la casa spaziosa come avviene normalmente nelle nostre residenze. Pagina 23 di Repubblica, l'addio di Bertone al Palazzo della Curia, vivrà nel mega attico. Ma siamo al momento conclusivo. L'articolo più inutile sui giornali. La carta costa. Oggi va al Corriere della Sera Luca Mastrantonio un'analisi delle foto nude di Salvini, perché il leader desnudo vuole mostrare a tutti che non ha nulla da nascondere, perché appare nudo senza ridere. Basta! Ma chi se ne frega? 24 mattino. Sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, è anche complicato raccontarla questa inchiesta sulla mafia a Roma, oltre 1000 pagine di intercettazioni che descriverebbero una cupola intenta a fare affari su tutto, grazie ai collegamenti con la politica. Cupola che, secondo la magistratura, è capitanata da Massimo Carminati, ex NAR, vicino già alla banda della Magliana, è considerato il capo di questa criminalità romana. Suo braccio destro Salvatore Buzzi, che gestiva le cooperative a 29 giugno. E loro, secondo l'accusa, facevano affari con politici, funzionari dei comuni, hanno trovato a casa di un funzionario del comune di Roma 570.000 euro in contanti, in buste del comune di Roma, murati. Lui ha detto erano i risparmi di una vita. È un'inchiesta in cui c'è anche un libro nero che compare a un certo punto a casa della moglie di Buzzi, in cui sono segnate le cifre: 10.000 euro a questo, 10.000 all'altro, 15.000 ogni mese, dato per oliare i meccanismi evidentemente della corruzione. Un'inchiesta in cui c'erano due poliziotti che hanno avvisato Carminati: attento, guarda che ti stanno indagando. Un'inchiesta in cui si lucrava su tutto, sulla gestione degli immigrati, sulla gestione dei campi Rom, sulla gestione dell'emergenza neve. Famo soldi su tutto, questa è la frase chiave. Uno spaccato che forse ha colpito, ma forse non più di tanto, un uomo, un magistrato, scrittore, reso celebre da un romanzo che poi è diventato anche un film e una serie TV, è Giancarlo De Cataldo, che saluto, buongiorno, autore di buongiorno Romanzo Criminale. De Cataldo, è stupito, l'ha stupita oppure no? Ritrovare alcuni dei personaggi, penso a Carminati, Ernero, su tutti ancora protagonista. Ma noi con Carlo Bonini abbiamo scritto nel 2013 un romanzo che si chiama Suburra, nel quale raccontavamo qualcosa di molto simile, cioè un accordo criminale per la spartizione della città con vecchi malavitosi romani, politici corrotti, preti corrotti, giornalisti corrotti e mafia, 'ndrangheta e quant'altro. Naturalmente era un'opera di fantasia, ma raccoglieva un po' di sensazioni tangibili a chi girasse per Roma, quindi sorpreso entro certi limiti, sorpreso dall'ampiezza del fenomeno così come appare dai primi atti di indagine. Senta, quello che tutti si chiedono è come è possibile che Massimo Carminati fosse ancora in libertà dopo il curriculum, almeno l'insieme della fedina penale che ha messo in fila in questi anni. Lei che lo ha incrociato ce lo sa spiegare? Condanne, poche condanne, credo soltanto una o due condanne per reati risalenti nel tempo, e da tutto il resto è stato assolto, quindi era libero perché non era colpevole per la nostra giustizia e quindi nella realtà dei fatti. Qualcuno dice che parlare di mafia forse è troppo, ovviamente lei non ha diciamo messo gli occhi su questa inchiesta, però da magistrato che parere si è fatto? Ovviamente mi rimetto ai colleghi che stanno indagando, che poi giudicheranno, è una cosa che non verrà a me perché non ci sono contestati omicidi, almeno per il momento. Le posso dire da storico ma anche da giurista che non mi scandalizzerebbe affatto l'ipotesi di un reato di associazione mafiosa a Roma, così come non mi scandalizzerebbe a Milano, a Genova, in qualunque città in cui ci siano soldi e potere, una malavita organizzata, mafia, tra virgolette, è un modello criminoso pacificamente esportabile. Siamo 30 anni almeno lontani dall'origine storica della mafia confinata in certe zone del nostro sud, legata a certi riti arcaici e via dicendo. Mafia è intimidazione, infiltrazione, pressione, uso della violenza interna ed esterna. È un modello, ed è un modello che non parla un accento particolare, parla tutti gli accenti italiani. Io ricordo il numero per intervenire in diretta, se volete, cari ascoltatori, 800 24 00 24. Insieme a Giancarlo De Cataldo, le presento Fiorenza Sarzanini, inviata del Corriere della Sera. Buongiorno Fiorenza, ciao e benvenuta. Buongiorno. Oggi tu scrivi proprio di questo libro mastro, libro nero, e nelle intercettazioni si vantavano anche dicendo: guarda com'è nero questo libro. In questo libro nero che cosa c'è trovato a casa della moglie di Buzzi? Ma in questo libro nero c'è la contabilità occulta, che poi tanto occulta non era, perché in alcuni casi loro preferivano addirittura far registrare, passare dai bonifici, proprio perché restasse traccia, e quindi probabilmente il politico fosse ancora più ricattabile, perché poi c'è anche questo, la pressione che loro esercitano in alcuni casi. Per esempio per Alemanno loro mandano subito dopo ogni delibera, diciamo, positiva, appena viene presa una decisione che favorisce l'organizzazione, loro mandano un bonifico alla Fondazione Italia, probabilmente per appunto lasciare traccia, per far sì che il politico poi sia sempre più legato all'organizzazione, perché anche questa è una forma di intimidazione e pressione. Ovviamente si leggono poi 10.000 euro a questo, 15.000 a quest'altro. Sì, chi erano le persone, non tanto non, se vuoi nomi cognomi, ma comunque anche la tipologia di persone che venivano in qualche modo remunerate per fare affari? Diciamo che c'era una doppia fascia. La prima fascia era quella dei funzionari, perché poi i funzionari sono quelli che materialmente si occupano delle pratiche, cioè il sindaco e l'assessore poi devono politicamente portare avanti la gara piuttosto che il finanziamento, però è il funzionario, quindi loro avevano il funzionario del servizio giardini, questo Turella che nascondeva a casa i risparmi di una vita, cioè 570.000 euro murati in buste del comune. Esatto, poi avevano il presidente della commissione trasparenza, quello dell'anticorruzione, avevano diciamo tutta una serie di funzionari che li agevolavano nelle gare. Poi c'era la fascia dei politici, perché c'era il politico, diciamo l'assessore, che doveva in qualche modo appunto agevolare l'organizzazione con le proprie delibere, con i finanziamenti. Loro sono riusciti a far cambiare il bilancio, e non è cambiato molto da quando siamo passati dalla giunta Alemanno alla giunta Marino, nel senso che ancora non erano così ben strutturati da essere inviati direttamente al sindaco. Ci sono gli sms di Buzzi che dice ad Alemanno il finanziamento è arrivato e lui dice tutto ok, quindi diciamo il rapporto era diretto. Con Marino non era diretto, però loro avevano agganciato in qualche modo il capo della sua segreteria. Ci sono le telefonate in cui Buzzi arriva in comune e lui dice scendo subito, arrivo, passa da me, quindi diciamo una frequentazione che comunque è cominciata. E poi ci sono appunto proprio quelli assessori, loro la gara per il multimateriale, cioè per lo smaltimento dei rifiuti nella differenziata, l'avevano già vinta truccando gli atti, tanto che quando Patanè, l'assessore regionale, dice vi dovete dare 120.000 euro, loro rispondono ma come, a Mancini che comandava l'AMA, perché gli abbiamo dato il 2% e mo questo vuole 120.000 euro, infatti pare che gli dicano abbiamo dato 10.000 euro e si accontenti. Esatto, è molto interessante questo, dottor De Cataldo, il fatto che è con quella, quella zona grigia dei cosiddetti colletti bianchi, pare si facciano sempre gli affari, a volte si contatta il politico ma molto più elemento chiave è il funzionario, colui che decide, è lì che si annida soprattutto la corruzione, De Cataldo. Ma la corruzione si annida dappertutto. Adesso quando voi parlavate del ritrovamento dei 570.000 euro che sono i risparmi di una vita, mi viene in mente un processo di 20 anni fa che io feci per una, diciamo, una costola di una tangentopoli romana. Un funzionario, trovarono in casa 3 miliardi del tempo in ghiacciaia e lui si giustificò dicendo che servivano alla moglie per le piccole spese. E quindi uno dice ammazza quanto ti serve 3 miliardi di vecchie lire, di vecchie lire, certo. E furono però restituiti, come credo questi soldi saranno confiscati. No, la corruzione si annida dappertutto, è un fatto purtroppo tragicamente endemico che può essere, cioè, che deve essere assolutamente combattuto. Cantone sta dando da tempo delle indicazioni, noi dell'ANM da tempo insistiamo su questo discorso dell'autoriciclaggio, che è una norma assolutamente fondamentale, ma non ci sarebbe, come dire, non ci sarebbe corruttore senza il suo corrotto, intendiamoci, o viceversa. Per esempio, no, ma è chiaro, per esempio c'è questa foto che circola, sulla quale oggi il ministro Poletti fa un'intervista al Messaggero, le chiedo questo ovviamente non come giudizio da magistrato, ma certo. Poletti è a cena con Alemanno, c'è anche Buzzi, c'è anche un pregiudicato, e Poletti dice, ma insomma è sgradevole tirarmi in ballo per questa vicenda, Buzzi era capo di una cooperativa, io ero il presidente di tutte le cooperative. Lei si immagina quando uno va alle occasioni pubbliche quante persone incontra e mica può controllare tutti. Ecco, che giudizio possiamo dare, De Cataldo, di una foto? Io credo che abbia assolutamente ragione Poletti, nel senso che la cooperativa di Buzzi era una realtà economica forte a Roma, quindi a parte quelli che sapevano che ci stavano facendo affari sporchi, per tutti gli altri era una opportunità di reinserimento dei detenuti, quindi rispetto del dettato costituzionale, diciamo una cosa di sinistra per intenderci, B, una realtà economica effettiva che risultava inattivo e che anzi faceva del fatto di avere delle relazioni bipartisan un fiore all'occhiello, diciamo un punto di forza. Quindi anche lì, sapete, bisogna essere molto attenti, adesso noi possiamo poi travolgere l'idea di base della cooperativa come utile momento di sviluppo dell'economia da un lato, e dall'altro lato dire beh si capiva che erano delinquenti perché erano ex detenuti, perché non è assolutamente vero e non sarebbe corretto. Nel salutarla e ringraziarla, ha visto che Carminati in un'intercettazione dice beh il romanzo criminale è un libro abbastanza attendibile effettivamente della mia. Beh, dicono anche, parlano anche di Suburra. Parlano anche, cioè, di Suburra, questa me la sono persa. C'è anche questo, Quindi, insomma, e qualcuno che gli dice, cioè qualcuno dice guarda che può darsi che in questo libro si parli di te. A proposito, io smentisco. Smentisce cosa? Smentisco che si parli di un personaggio in particolare. Smentisce, cioè sono somme di caratteri. Ok. Il problema è sempre quando giri per Roma, vedi una città che sta cambiando, che sta diventando sempre più brutta, sporca e cattiva, qualche domanda te la fai e scrivi. Infatti, ed è anche sintomatico del fatto che lei smentisce, non si parla di lui, ma lui ci si riconosce, o qualcuno pensava che lui ci si potesse riconoscere in questo libro. Intanto la ringraziamo per essere stata con noi, grazie davvero. Grazie, a Giancarlo De Cataldo, magistrato, autore di Romanzo Criminale, autore di Suburra. Fiorenza Sarzanin, noi riprendiamo dopo la pubblicità, però anticipiamo qualcosa, ci raggiungerà l'onorevole Sciauchi, che è responsabile immigrazione del PD. Perché l'abbiamo chiamato? Perché Fiorenza era evidente come gli affari più grandi e il lucro maggiore fosse proprio la gestione degli immigrati, la gestione dei campi rom. Ti chiedo politicamente che cosa succederà, perché si parla di possibili nuovi arresti, Fiorenza. È così, si parla di nuovi arresti, c'è sicuramente una rete di complicità che ancora non è emersa. Tu prima hai parlato di quelle intercettazioni su tutte appunto le protezioni di cui Carminati godeva, tanto che, come appunto è stato scritto oggi sul Corriere della Sera e su altri giornali, i carabinieri del Rosso hanno dovuto prenderlo due giorni prima per paura che lui scappasse, perché era stato avvisato, perché sapeva di avere i... Questo è incredibile, avvisato da due poliziotti, uno dei quali gli dice: è vero che hai sparato a un agente, sono ammirato. Ma che vuol dire quella? Lui godeva di una complicità esagerata, aveva complici a tutti i livelli. Infatti io non sono molto d'accordo con De Cataldo quando dice Buzzi non si poteva sapere che era quello. Forse qualche approfondimento in più anche su questo strapotere di Buzzi andava fatto. Allora ripartiamo da qui, la gestione degli immigrati. Oggi Libero titola proprio questo: lucravano sugli immigrati. Il titolo è più esplicito, adesso non ce l'ho qui sotto mano, ma è un qualcosa che suona proprio come dire, guadagnare, il vero scandalo degli immigrati. Eccolo qua, il grande affare degli immigrati. C'è questa intercettazione che sentiremo di Buzzi: ma sai quanto mi fruttano gli immigrati? Più del traffico di droga. 24 mattino. Sono le 8 e 38 minuti e stiamo parlando di che cosa? L'inchiesta sulla mafia a Roma. Tu c'hai idea? Non è che un cantieretto guadagni miliardi. Apposta, tu c'hai idea quanto ci guadagno sugli immigrati? Il traffico di droga rende di meno. Ecco, in questa intercettazione ambientale Salvatore Buzzi dice: tu c'hai idea di quanto guadagno con gli immigrati? Col traffico di droga c'è guadagno di meno. Siamo con Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera e saluto l'onorevole Khalid Sciauchi, che è responsabile immigrazione del PD. Buongiorno Sciauchi, ben trovato. Buongiorno. Allora, vogliamo sentire intanto qualche ascoltatore, ci chiamano ovviamente in tanti. Antonio da Roma, buongiorno Antonio. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Senta, io volevo dire soltanto una cosa: ci sono quattro grosse organizzazioni criminali, la mafia, la camorra, la 'ndrangheta e la Sacra Colonna Unita. Queste quattro organizzazioni non esisterebbero se non ci fossero politici corrotti. Questo è chiaro, funzionari, persone corrotte. E avidi di soldi. Cioè, chiunque va in politica per fare soldi e non per gli italiani. Guardi che però, Antonio, io la ringrazio per questo parere, ma abbiamo sentito molte volte sono i funzionari, le persone che sono decisive nell'aspetto politico. Poi non è tutto marcio. Oggi Avvenire racconta la storia dell'assessore ai servizi sociali del Comune di Roma, Rita Cutini, 53 anni, che nelle intercettazioni viene definita come una, oddio, cioè la Cutini è inavvicinabile, e lei infatti fa un'intervista dicendo: ecco, ora capisco perché mi delegittimavano continuamente, perché io ero, come si legge nelle intercettazioni, inavvicinabile. Quindi ci può essere anche il politico che dice no alle pressioni. Comunque grazie Antonio, vorrei andare a Milano da Claudio, Roberto da Milano, buongiorno. Buongiorno Alessandro, io volevo fare una domanda, no? Praticamente fino a 6-7 mesi fa si parlava di questo grosso buco del Comune di Roma. Anche sei giorni fa, si parla di 4 miliardi che abbiamo dati a Roma Capitale. Ma li diamo, come li abbiamo dati a Roma Capitale? Li abbiamo dati a questa banda qua, non è il massimo. Non è il massimo, Roberto, capisco. Allora, con Fiorenza Sarzanini, onorevole Sciauchi, che effetto le fa vedere che si lucrava proprio sugli immigrati, si lucrava sui rom, si lucrava con tutto, per la verità si lucrava con tutto quello che c'era a disposizione, ma l'immigrazione è una delle fonti di una maggiore ricchezza? Beh, sconvolgente, devastante, un po'. Noi ovviamente avevamo sempre segnalato e denunciato che c'erano anomalie nella modalità di emergenza, soprattutto l'emergenza Nord Africa, in cui si preferiva scavalcare i bandi, ma soprattutto insomma, quello che sconvolge è il livello di corruzione interno sia insomma, a persone che hanno etichette politiche sia di destra che di sinistra, ma soprattutto insomma, un sistema che a prescindere dal colore politico riusciva di fatto a imporsi in un settore che non solo è, insomma, è strategico per l'accoglienza del nostro paese, ma è un settore che avrebbe dovuto vedere un livello di controllo molto alto, vista la mole di denaro che circola, ma soprattutto anche le conseguenze, perché molte di queste cooperative non avevano nulla a che fare con questi temi, non avevano nessun tipo di competenza e semplicemente hanno fiutato il business e sbaglia tuttora chi non verifica fino in fondo chi sono queste realtà e soprattutto cosa fanno con questi soldi. Sì, ma e al di là di quello, cioè io ora capisco che se qualcuno sotto sotto si frega le mani se continuano ad aumentare gli immigrati che arrivano da noi, perché a questo punto ci sono molte persone che le vedono come una fonte di guadagno brutale. Però io vorrei, Fiorenza Sarzanini, cosa rispondiamo all'ascoltatore di Milano che dice: ma come, diamo fondi e soldi, ancora si è scoperto negli ultimi 5 anni 4 miliardi a Roma Capitale, che gli abbiamo dati a questa banda, a questa cricca, oppure sì, forse pure a qualcun altro, forse pure a qualche altra cricca, ha ragione. Infatti quando tu dici erano i funzionari all'altro ascoltatore che diceva noi, cioè, non solo i politici, anche i funzionari. Certo, il problema però è che il politico sta lì anche per controllare, cioè io credo che siamo arrivati, oggi l'ho scritto anche sul Corriere della Sera, noi siamo arrivati a un livello di permeabilità della politica per cui non c'è più nessun alibi. Il funzionario ruba, la colpa è anche del politico che dovrebbe controllare. Purtroppo se non scatta una misura vera di controllo da parte proprio della politica, siamo nel disastro, appunto. Siamo che poi Roma Capitale perde 4 miliardi perché una parte dei soldi, cioè Buzzi fatturava 60 milioni l'anno, è una cifra immensa. Ci credo che dice facevo più soldi con gli immigrati che con la droga, soprattutto avevo meno rischi, perché poi adesso si è scoperto. No, perché certo, perché gli immigrati è una cosa totalmente legale, allora, gestire gli immigrati. Non ci deve essere più nessun alibi per i funzionari, per i politici, non c'è la possibilità di dire boh, no, non l'ho visto. Appunto, anche chi dice vai, io ci andavo a cena perché pensavo, no, tu prima di andare a cena, prima di affidare un appalto, il controllo deve essere vero. De Cataldo diceva Cantone sta dando delle linee serie, ma vengono applicate le regole che Cantone si sgola per cercare di mettere diciamo un sistema più garantista per chi, appunto, per poi per i contribuenti, viene applicato? Io ho qualche dubbio. Hai qualche dubbio? E allora qui veniamo alla questione politica. Allora Sciauchi, le faccio sentire ciò che Renzi, che oltre ad essere il premier e il segretario del suo partito, ieri alla 7 da Enrico Mentana ha detto, tra l'altro ha commentato anche quando ho visto questa intercettazione, ha detto mamma mia, mancano Jack lo Squartatore e il mostro di Loch Ness. Vabbè, queste insomma le solite battute alla Renzi, ma poi ha preso un provvedimento che è questo. Ovviamente l'epicentro di tutto è l'amministrazione di Alemanno, ma non mi pare di poter dire che alcuni del PD romano possano tirarsene fuori allegramente. Per questo oggi ho accolto la disponibilità del segretario del PD romano Cosentino, che è una persona seria, ho accolto la sua disponibilità a fare un passo indietro e ho proposto il commissariamento del PD di Roma nella persona di Matteo Orfini, che è il presidente del partito. Allora, Orfini, che è presidente del PD, va a fare il commissario. Sciauchi, tutto a posto così, cioè piazza pulita, via 2 o 3 mila marce o considerate tali e si può andare avanti? No, io credo che ci sia, insomma, è stato anche in passato e adesso anche in alcuni dirigenti del PD qui a Roma un livello di connivenza e di sottovalutazione. Ha ragione Sarzanini, in un rapporto malato con molti mondo del privato, molte, il tema delle cooperative che non riguarda solo Roma, ma è un problema che va sicuramente rivisto. C'è stata una spartizione molte volte anche diciamo nelle relazioni, c'è stato un livello di divisione interna di correnti organizzate che in qualche modo facevano riferimento ad alcune realtà, quindi sono molto, anzi, insomma, siamo contenti che il Presidente del Partito Democratico si prenda in mano quello che è l'organizzazione del Partito Democratico nella capitale d'Italia. Non è solo il PD, è un sistema trasversale, ma per quello che mi riguarda è bene che il PD dia il buon esempio, non solo elevando qualche mela marcia, ma rivedendo tutto il sistema dei rapporti tra il Partito Democratico, tra i suoi dirigenti soprattutto, e un mondo che in questi anni ha prodotto molte inchieste, soprattutto ha fatto vedere un clima di corruzione spaventoso. Sì, ma cosa risponde a Fiorenza Sarzanini, che oggi effettivamente nell'editoriale di prima pagina del Corriere dice la politica deve prendere in mano la situazione, cioè accorgersi se quel funzionario, se quella cooperativa, non dopo quando arrivano i magistrati, ma prima accorgersi e fermare queste cose, sciogliere, rompere queste connivenze. Sciauchi, la politica ha gli strumenti per farlo oppure no? Ma non sempre, la politica può fare delle denunce come sono state fatte durante l'era Alemanno, può appunto segnalare dei dubbi, però devo dire che qui a Roma, e io ci vivo tutto sommato da un po' di tempo, ci sono un sacco di pressioni che uno deve avere la forza morale di resistere e di evitare, che non sempre significano corruzione ma significano tentare di condizionare delle scelte, quindi c'è sicuramente un problema etico, morale di chi oggi ha delle responsabilità amministrative, non sempre purtroppo c'è una risposta all'altezza, poi c'è un problema anche di chi avrebbe dovuto controllare la politica, ma anche la prefettura, in questo caso il Ministero degli Interni, e noi tra l'altro abbiamo votato la settimana scorsa, dopo quello che è successo a Lampedusa, una commissione di inchiesta sul sistema di accoglienza, dove per un anno si indagherà su tutti gli appalti, perché sono tra l'altro documenti riservati. Da subito su Roma di bloccare tutti gli appalti sul tema dell'immigrazione dei Roma eccetera, perché va fatto subito un esercito dato chi, come e con cosa fa il problema sì, che spesso avviene esposta. Comunque, per concludere nel ringraziarvi, poi c'è anche qualche ascoltatore magari dopo il traffico, Fiorenza Sarzanini, un altro tema è questo: quelli del Movimento 5 Stelle chiedono ma se c'è la mafia a Roma bisogna sciogliere il comune per mafia, ci sono i margini perché questo possa succedere? Diciamo che questa è una contestazione all'inizio, adesso bisognerebbe comunque aspettare il tribunale del riesame, vedere se regge tutto l'impianto. In ogni caso, per sciogliere un comune per mafia c'è una procedura lunga, bisogna fare una commissione d'accesso, non è così semplice. Sicuramente c'è qualcosa da fare, perché ha ragione Ciauchi quando dice anche il Ministero dell'Interno doveva controllare i certificati eccetera, però se sempre si scarica su qualcun altro, cominciamo dal Campidoglio, nel Campidoglio c'è qualcosa che non andava e lì subito secondo me bisogna intervenire e quindi non so se la soluzione sia lo scioglimento e il commissariamento, tanto al commissariamento ci si stava arrivando già ben prima di questa inchiesta, quindi non lo so se questa è la soluzione. La soluzione è comunque che si cerchi di azzerare tutti quegli appalti, tutte quelle quegli affidamenti sospetti e controllare. No, ma infatti perché ma è chiaro, se no tra 10 anni siamo ancora qua. Soprattutto alle prossime elezioni, ma al di là poi di quello che è il risultato, se a Bologna hanno votato il 36%, a Roma ci andrà il 10%, e anche questo, voglio dire, è un sintomo di malessere. Ma d'altronde si dice tra 20 anni siamo ancora là, ma poi la storia dell'Italia è questa, che ogni 20 anni, se non ogni 10 anni, se non ogni 5 anni, le cose si ripropongono. Io ringrazio Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera, così come l'onorevole Khalid Ciauchi, responsabile immigrazione del PD. Traffico 24 mattino. Siamo qui e vorrei dare la parola a Claudio da Torino, che è lì da un po' e lo ringrazio per questo. Claudio, buongiorno. Buongiorno, scusi. Pronto? Sì, la sentiamo Claudio, dica. Io volevo soltanto intervenire per alcune cose che peraltro sono state già affrontate, quindi il decreto Salva Roma qualche mese fa c'era chi piangeva in Parlamento per averlo e abbiamo visto che fine ha fatto. E dà fastidio solo aver dato dei soldi, come è giusto, dà fastidio. Neanche un po', anzi, piacere che non dico parole perché non sono in radio, ma mi fa piacere che quella gente, mentre noi approvavamo con tanto sacrificio da parte degli italiani un decreto salva Roma, c'era gente che si fregava le mani, no? Certo, dico, le dispiace molto avere dato dei soldi a, ecco, le ha definiti lei poi farabutti, insomma, adesso poi bisogna vedere, vediamo, siamo garantisti, c'è l'inchiesta, certo, lo spaccato delle intercettazioni che potete leggere ovunque è davvero impressionante. Ma noi come sapete chiudiamo sempre la trasmissione invitando una persona che ci ascolta, un ascoltatore che ci sente segue dall'estero e ci stanno inondando di mail da tutto il mondo. Siamo partiti dalle Seychelles, siamo passati dalla Siberia, siamo andati in America. Oggi? Ciao Italia! Ciao Italia, oggi voglio salutare chi pronto, si presenti lei. Buongiorno, chi abbiamo oggi? Dobriden Alessandro, sono Dalia da Praga. Accidenti, io conosco un po' il russo e infatti è simile. Dalia da Praga ci ascolta, sì. Città magnifica, che bello. E che ci fai a Praga, Dalia? A Praga faccio il capo progetto in ambito IT per una multinazionale che bello. Ha creato qui un team internazionale, quindi sei è da lì. Un anno che sì, sono qui. E come ci ascolti? Come ci ascolti da lì? Mi ascolto sul collab, sullo smartphone. Che bello. Sei riuscito a seguire anche oggi? Hai visto? Hai sentito di questo bello spaccato da Roma capitale che arriva fino a Praga? Sì. Che ne pensi? Che idea ti sei fatta? Purtroppo ho sentito. Purtroppo penso che la cosa più triste sia ormai averci quasi fatto l'abitudine, no? Purtroppo ci si scandalizza, ma sono notizie che si susseguono e effettivamente è un po' così. Hai nostalgia dell'Italia? Da quanto è che sei lì? Mi hai detto un anno, quindi. Sì, sono qui da un anno, sì, certo, ho un po' nostalgia, però tutto sommato Praga è vicina, perché sono da Bologna 900 chilometri, quindi è così. Sei di Bologna, fantastico. Sì, sì, da Bologna, Bologna a Praga. E come si vive lì? Beh, Praga è una città magnifica, io l'ho visitata, una città europea, una capitale, ma è una città bellissima, piena di culture, di arte, di storia. Che si fa a Praga? Esatto, ma sì, a Praga, come dicevi tu, secondo me si vive molto bene, l'offerta culturale è ricchissima e anche negli ultimi tempi sta diventando sempre più internazionale. Con la lingua, quindi, come te la cavi? Con la lingua diciamo che sto mettendo le basi. Il buon proposito per il nuovo anno è cercare di fare un corso seriamente per cercare di essere sempre più integrata. Devo dire che comunque il cieco è molto difficile, quindi non sarà semplice. Però certo. Noi in pratica abbiamo una cieca d'adozione, Dalia, noi abbiamo qua Ercecato invece, protagonista qui all'Italia, ognuno ha ciò che si merita, possiamo dire così. Dalia, che ti manca, se ti manca qualcosa dell'Italia? Beh, mi mancano moltissimi weekend al mare con i miei amici, sicuramente, perché qui abbiamo un bel fiume. Ci sono molte cose da fare sul fiume, però non è la stessa cosa. E poi mi manca tantissimo il mio cagnolino, che per ora è rimasto a casa con i miei genitori, e speriamo di riuscire a portarlo a portare più presto. Vabbè. Sì, allora. Manda un messaggio a tutti gli italiani da lì, da Praga, visto che ci ascolti da lì. Che vuoi dire agli italiani? Ma vorrei dire che l'Italia all'estero, non solo che a Praga, ma in generale, ho viaggiato tanto, quindi insomma ho sempre ritrovato questo, è estremamente apprezzata. È molto amata e il mio messaggio è di amarla come è amata all'estero. Che bello. Grazie Dalia, ovviamente un abbraccio, che arrivi fino a Praga. E voi, cari ascoltatori, se ci ascoltate dall'estero, ci seguite 24 mattino, scriveteci, 24 mattino è radio24.it, è una di voi al giorno vi chiameremo per scoprire perché ci ascoltate dall'estero e che pensate di noi italiani. Ciao Italia, saluto allora Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione e il nostro Gianmarco Ferronato in regia. Scriveteci anche se volete tutto quello che pensate, se la mail è sempre quella 24mattino@radio24.it, e se volete seguiteci su Twitter, il mio profilo è Alino Milan. A domani 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.